Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Una delle domande più famose, più citate della storia della letteratura di tutti i tempi è quella contenuta nel romanzo Il giovane Holden, che più o meno dice: ma dove vanno le anatre del laghetto di Central Park quando d'inverno il laghetto ghiaccia? Io da bambino non avevo letto quel libro, però avevo una domanda simile che era: dove vanno d'inverno i bagnini? Dove vanno d'inverno quelli che lavorano nei lidi, quelli che lavorano negli stabilimenti? Non pensavo che ci potessero essere anche d'inverno quando non ci andavo al mare, quando pensavo non ci andasse nessuno. E soprattutto non pensavo che la gente potesse fare due lavori. Non pensavo che potessero fare un lavoro d'inverno e un lavoro d'estate. Non sapevo cos'era la flessibilità e tutte queste altre parole che vanno di moda adesso. E invece probabilmente lo facevano. Facevano due mestieri d'estate, due mestieri all'anno, uno d'inverno, uno d'estate. Cambiavano vita così. Senza andare dall'altra parte del mondo, senza niente di traumatico, cambiavano vita di continuo. Sei mesi, un po' e un po'. Ecco, noi oggi parliamo di questo. Se cambiate mestiere con le stagioni, se, che ne so, siete avvocati a novembre e istruttori di vela ad agosto, se avete un ufficio a marzo e un negozio a luglio, se andate in azienda a gennaio e in un chiosco a giugno, chiamateci e raccontatevi il vostro giro di vita. 800 24 00 24. Ecco, io cerco sempre i colpevoli di certi miti, di certe leggende che abbiamo, e se poi a un certo punto io ho pensato e tanti altri miei coetanei hanno pensato di lavorare dove gli altri si divertono, secondo me la colpa è anche di questo telefilm con Jerry Calà che si chiamava Professione Vacanze. Benvenuti a Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e ha inventato un nuovo inizio, come magari oggi chi lo fa con continuamente, periodicamente. Io sono Achille Corea, questa è Radio 24, 800 24 00 24 per chiamarci, ma anche facebook.com/girodivita per lasciarci un commento o una storia su Facebook. Oggi cerchiamo appunto persone che cambiano nel corso dell'anno, come fa per esempio Mirko. Benvenuto. Mirko. Ciao a tutti. Eccoci, Mirko. Ciao. Dove ti trovi in questo momento? Ah, in questo momento sono al villaggio T-Blu, in Basilicata. Perché? Che lavoro fai? Allora, io d'inverno sono un arbitro di calcio e lavoro anche in un bar come barista. E d'estate? D'estate, animatore. Ah, animatore. Senti, allora, intanto tu ne fai tre di lavori. Qua sei proprio, sei anche avanti. Impegnato tutto il giorno. Sì, ma tutto l'anno. Due in inverno e uno d'estate. Arbitro a che livello? Allora, sono arrivato in Serie D, ho fatto l'esordio l'anno scorso in Serie D. Ah, quindi cioè, quanti anni hai? 23 hai anni. Delle possibilità, un giorno potremmo sentire l'arbitro Melchiorre da dove? Orvieto, la sezione Orvieto. Ci potremmo dire Inter Milan arbitra Melchiorre da Orvieto, vabbè, ce l'ho io. Magari, me speriamo. Lo segno. E speriamo. Da quanto tempo fai questo cambio? Questa è la mia prima esperienza come animatore. Ah, e quindi hai deciso che non... Sì, non sì, sì. Scusa, la mia curiosità, visto che comunque il barista è un lavoro che si può fare anche d'estate, perché non fai il barista d'estate e proprio fai un'altra cosa? Per cambiare, per non avere la vita sempre monotona. Ecco, hai esordito adesso, che tipo di animazione fai? Adulti, bambini? Allora, guarda, io adesso mi occupo di bambini dai 9 ai 12 anni. Secondo me è l'età perfetta con cui mi ci diverto tantissimo con loro. Che fai durante il giorno? Raccontacelo un po'. Allora, durante il giorno, la mattina ci incontriamo, poi abbiamo un corso di tennis dove i bambini si divertono con un istruttore, anche lui molto bravo. Fino al corso di tennis andiamo al mare, dove al mare facciamo dei grandi giochi, facciamo dei balli, gli insegniamo la sigla. Insomma, li segui tutto il giorno, ma tu quando ti riposi? Quando mi riposo? La notte. E durante l'anno quando ti riposi? Durante l'anno anche lì la notte. Vabbè, vabbè, tu sei giovane, hai 23 anni, quindi qualcuno a casa starà pensando, vabbè sì, aspetta di arrivare a 30 anni, 40 anni e poi vediamo. Però tu ce l'avrai un'idea di che cosa vuoi fare in futuro? Cioè pensi di andare avanti con due cose così o hai già scelto? Guarda, io spero, adesso spero soprattutto di andare avanti con l'arbitraggio, perché è la mia passione e quindi spero di andare il più avanti possibile. Ma anche come animatore, come prima esperienza, ti dico, è stata bellissima, quindi penso proprio di continuare. A fare tutte e due le cose. Dimmi una cosa. Finché il fisico regge, lo faccio. Vabbè, 23 anni, poi arbitro, ti alleni, reggerà un sacco. Dimmi una cosa, io mi scoccio sempre a chiedere le cifre, ma quanto guadagna un arbitro in D? Quanto guadagna? Più o meno, oddio. Sulle 400 euro a partita. Ma pensavo peggio, pensavo 400 euro al mese. Vabbè, allora ti incoraggiamo e ti spingiamo a continuare a fare l'arbitro e insomma ad andare avanti. Sì, e sì. Cioè, questo, da quant'è che fai l'animatore, mi hai detto? L'animatore da giugno. E c'è stato già un momento che hai tentennato, hai detto forse non era proprio come pensavo io? All'inizio sì, vabbè, certo devi iniziare un po' a carburare, diciamo. Però dopo, appena hai trovato il tuo ritmo giusto, la giornata passa e ti diverti. Hai mai espulso un bambino? Sì, sì. Ti sei portato i cartellini rossi? No, già... i cartellini no, a voce. A voce l'hai espulso. È più difficile avere a che fare con dei dodicenni o avere a che fare con dei calciatori semi? Beh, no, con i calciatori, quelli grandi, sì. Per va forza, bene. Come fai? Ok, senti, dici... Con i bambini è divertimento, lavori divertendoti. Vabbè, saranno contenti anche i genitori che ti rilasciano un po', va? Dici una cosa per i nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Allora, Mirko, che d'inverno fa l'arbitro e lavora in un bar ed estate fa l'animatore per i bambini, cosa si porta dietro? Allora, sicuramente mi porto il mio fischietto, perché quel lavoro non l'abbandonerò mai. Quindi, e lo usi anche con i bambini, viene comodo. Anche con i bambini, sì, certo. Poi io mi sento arbitro dentro anche qui, quindi sicuramente il fischietto mi porterò sempre. Guarda, c'era un film che non so che hai visto, c'è un film che è di Virzì, quello con Mastandrea, che si chiama La prima cosa bella, che c'è proprio tutto un personaggio che fa l'arbitro da quando era bambino e dice perché la cosa più bella è fare l'arbitro nel gioco del calcio. Non l'ho visto, come si chiama? È tutta la prima cosa bella, guardalo, perché è uno dei pochi film che ho visto in cui si parla di un arbitro. Cosa hai buttato invece? Cosa hai buttato? La macchina. La macchina, via dal traffico. Sei contento di stare a piedi per un po'? Contentissimo. Va bene, Mirko, noi ti ringraziamo. Buon lavoro con i bambini e buon lavoro da arbitro quando ritornerai a casa. Ecco alcuni mestieri che potreste fare durante le vacanze: guidatori di pedalò per bagnanti sedentari, allenatore di calcio balilla, personal trainer per rimorchiatori da spiaggia, venditori di birra e calippo, architetti di castelli di sabbia per bambini viziati. Questa di venditori di birra e calippo è molto molto attuale. Cercate su YouTube se vi è sfuggito l'alto riferimento. Questa è Radio 24, questo è Giro di Vita e noi vi invitiamo a telefonarci all'800 24 00 24 se avete dei mestieri che svolgete d'estate abbandonando il vostro, anche più seri di questi. E se lo facessi io? Ecco, se lo facessi io, questa è la domanda che ogni giorno mi faccio e vi faccio, quella domanda che insomma ci aiuta a capire se la persona che abbiamo chiamato è uno che ha un carattere particolare, un talento particolare, oppure segue una strada che può essere perseguita anche da altri. Oggi ne parliamo con Caterina Ceci, che è responsabile di Roma per le selezioni del personale della Samarcanda, che si occupa appunto di animatori. Caterina, benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, intanto ce n'hai parecchi di appunto aspiranti animatori che d'inverno fanno altre cose? Sì, sono tantissimi, perché non tutti scelgono di fare questo lavoro per tutto l'anno, quindi abbiamo tantissime persone che ci chiamano per per fare un'esperienza estiva. Qual è secondo te il mestiere che poi più nasconde dentro una professione, che più nasconde dentro degli aspiranti e potenziali animatori? La professione deve essere una professione sicuramente rivolta al pubblico, si avvicinano più a noi quelli che hanno a che fare comunque con il pubblico. Quali sono le prime cose che guardate quando uno vi dice vorrei fare l'animatore per un'estate? Beh, innanzitutto se è una persona socievole, educata e cortese, perché quello è fondamentale per noi, che abbia sicuramente la voglia di stare in mezzo agli altri, perché in villaggio inevitabilmente si sta sempre in mezzo alla gente. E poi nel corso del colloquio, che avviene appunto il primo step, il colloquio conoscitivo, cerchiamo di andare un pochino a fondo su eventuali competenze, se qualcuno ne ha, altrimenti se non ne hanno cerchiamo di tirargliele fuori noi, in base al carattere della persona e ai lavori fatti in precedenza. Quali sono le avvertenze che date più spesso? Cos'è che dite? Guarda che non è così come credi, ma è, diciamo, è un po' diverso rispetto al villaggio che uno conosce andandoci da turista. Allora, andandoci da turista, ovviamente come ogni cosa sembra tutto rose e fiori. Fare l'animatore è bellissimo, però è molto sacrificante, soprattutto perché non si ha mai un attimo per se stessi, nel senso che si vive comunque si condivide l'appartamento con altre due o tre persone, si sta sempre, diciamo così, tra virgolette, sotto i riflettori, non si ha un attimo per dire adesso mi metto in panciolle e mi rilasso, quello non si ha, anche se ci sono tanti momenti per riposarsi, però non si sta mai da soli con se stessi. Questo è una cosa che a volte è difficile da superare. E questo può essere anche il punto critico. Ma fammi capire una cosa, uno che vuole fare un animatore, quando lo selezionate, poi parte verso questi villaggi o c'ha una fase di prova, un test? Allora, noi iniziamo, praticamente noi, il gruppo Samarcanda fa selezione 365 giorni l'anno, attualmente appunto ci sono le sedi aperte e continuiamo sempre a cercare animatori. Funziona in questa maniera, noi contattiamo le persone che ci mandano il curriculum online sul nostro sito, li contattiamo per un colloquio conoscitivo. Al termine del colloquio conoscitivo, se dovesse risultare positivo, lo invitiamo a fare una formazione che si chiama SAM Academy. Per i generici, e quindi si parla di mini club, contatto, sportivi eccetera, la formazione è di 5 giorni. Per ruoli un pochino più tecnici, che sono gli scenografi piuttosto che i coreografi o tecnici suono e luci, facciamo una formazione di 10 giorni. Al termine della formazione, in base alle caratteristiche e alle competenze dei ragazzi, gli diamo una destinazione, gli facciamo una proposta di contratto che loro sono liberi di accettare o meno. Senti, quanto si guadagna più o meno? Ma diciamo la base, noi abbiamo tutti i contratti a tempo determinato, ovviamente, in più abbiamo il vitto e l'alloggio e la base è dai 400 in su. Senti, ovviamente sì, appunto con le spese pagate, col vitto e l'alloggio. Dimmi una cosa, sono più quelli che lo fanno per un po' o più quelli che poi alla fine ci rimangono anni e magari fanno carriera? Ma guarda, magari ci sono delle persone che inaspettatamente decidono di prenderlo proprio come vita e altre persone che magari lo fanno una volta e poi, nonostante sia stata una bella esperienza, prendono altre strade. Però io la cosa che mi sento di dire comunque a tutti i telespettatori è che almeno una volta andrebbe fatto, perché è una gran bella esperienza di vita. Sì, l'ultima domanda che ho. Prego. L'effetto Fiorello, cioè l'animatore che è diventato famosissimo, è sì. Stato più un fattore che vi ha portato gente brava e preparata o è stato un danno perché vi arriva la gente pensando che siano le selezioni per poi andare su Rai 2, su Rai 1? Allora, non è mai un danno l'effetto Fiorello, perché meno male che ce ne sono di Fiorello in giro, anzi di Fiorello ce n'è uno, però insomma ci sono tanti bravi ragazzi in giro. Ma noi siamo molto chiari dalla selezione, se una persona ha delle competenze e delle capacità comunque emerge. Poi ci sono anche delle persone, dei nostri animatori che hanno fatto strada in televisione piuttosto che nel circo, piuttosto che alla radio, però a noi non ha mai creato il danno l'effetto Fiorello, al contrario. Bene, bene, allora lo ringraziamo anche per questo. Ma ragazzi, assolutamente, per sempre proprio. Grazie a te Caterina e grazie per averci raccontato tutte queste cose. Avete avuto come da definire l'accoglienza folklore locale? Vi è piaciuta? Il programma prosegue con il Tropical Cocktail di benvenuto che sarà servito nello spiazzo alla vostra sinistra. Via! Sì, andiamo. Marciami! Mi comunicano che il cocktail è stato spostato per ragioni tecniche al palmetto alla vostra destra. Correre, Raus! Che siamo in campo! Nuovo controordine. Il cocktail sarà servito nel bungalow oltre la piscina. Scappi in palo, Raus! Sei italiano? Sì. Siete tutti uguali. No, io. Guarda che qui devi rigare dritta, capito? Secondo me questo non l'avrebbero preso alla selezione, non l'avrebbero preso questo animatore che noi siamo andati a pescare nel film Pappa e Ciccia, in cui ovviamente c'era un Paolo Villaggio che subiva le angherie di questa organizzazione ferrea. 800 24 0024 per raccontarci il vostro cambio di vita stagionale. Sentiamo Paolo, benvenuto. Ciao, benvenuti a tutti. Paolo, cosa fai d'inverno e cosa fai d'estate? Allora, d'inverno sono un tuttofare. Ma tipo? Tipo, ho iniziato la mia carriera come falegname, ho fatto cucina arte povera e moderna, poi mi sono dato un po' anche all'animazione, ho sentito poc'anzi che facevate un'intervista parlando di animazione. Sì, e poi? Poi ho fatto anche il manovale. Insomma, di tutto. Di tutto, di più, e poi adesso ho trovato il mio business che d'estate faccio il bagnino a Porto Cervo. Ah, il bagnino a Porto Cervo, scusa, è d'inverno ad esempio, tu fai il bagnino a Porto Cervo e da settembre in poi cosa farai? Da settembre in poi, da quando ho scoperto Villaggi e avere quella vena comica da buon napoletano che abbiamo, quella teatralità nel sangue, mi sono dato al cabaret. Ah, fai il cabaret, ma scusa, non confondi mai le due cose, non è che ti metti a raccontare, a fare un monologo sulla spiaggia e... Perfetto. Ah, lo fai? Cioè tu tipo mentre tra un salvataggio e l'altro monologhi? Sì, guarda, qui c'è tanto da raccontare, con tutti i cinesi che ci stanno in spiaggia, piede, collo, massaggiano dappertutto, siamo un popolo più massaggiato d'Italia. Ah, ho capito, e poi d'inverno che fai, racconti la spiaggia in teatro? Sì, guarda, i monologhi più belli sono le storie vere raccontate. Senti, dove sei adesso esattamente? Adesso qui sono di fronte al mare di Porto Cervo, Hotel Colonna Pevero. Ah, ok, e scusa, da quanto lo fai tu questo lavoro? Il bagnino saranno 3-4 anni. Come ti ricordiamo, come si comincia? Ci vuole il brevetto, tutto quanto? Sì, sì, bisogna prendere questo, adesso è un discorso serio, bisogna prendere il brevetto nelle piscine FIN, Federazione Italiana Nuoto. Il corso è una cosa molto seria che serve non solo ai bagnanti, ma serve proprio nella vita, dovrebbero farlo nelle scuole, perché è primo soccorso. Ho capito. Tu però speri di diventare un attore talmente famoso e bravo da poter mollarlo questo lavoro? Guarda, uno nella vita mira sempre 10 per prendere poi 2, però bisogna saper fare sempre altro nella vita, se no fai la fame. Ho capito. E dimmi un'ultima cosa, per il discorso di prima, io mi scoccio sempre a fare questa domanda, però poi io voglio sapere, quanto guadagna un bambino? Un bagnino, a secondo di dove lo fa, perché ci sono le cooperative, quelle che lavorano in zona, nella propria città, la paga sindacale è sui 1.200. Fare il bagnino a Porto Cervo da 1.500 in su, vitto e alloggio. E a fare il monologatore, il cabarettista? Quello non ha prezzo, a secondo dove lo fai e quando lo fai. Molte volte si fa gratis perché è una vetrina e qualche volta ci si fa anche pagare, però non è un lavoro, è divertimento. Senti, ma tu c'hai il fisico, ma noi qui non ti possiamo vedere, c'hai il fisico da bagnino? Guarda, sono un bel ragazzo, sono alto 1,80, abbronzatissimo. Scusa, questo non ti frena, perché poi invece che diciamo, i cabarettisti, quelli più bravi, sono tutti un po' sgraziati, non ti frena poi? No, sai perché? Io ho anche la somiglianza scenica un po' di Troisi. Troisi era un bell'uomo, nonostante è stato un grande. Sì, è veramente Roma. Infatti sento anche un po' una cadenza, un atteggiamento. Tu ti sei formato su Troisi? Sì, Troisi è stata una scuola per me. Nonostante un po' di dizione, basta un attimo che esce, basta un attimo che subito ciò che fatti, no? Ho capito, quindi ti dici la verità, hai iniziato come imitatore di Troisi, cioè si capisce? L'imitatore, guarda, secondo me è un dono di natura, perché a scuola imitavo i professori. Sentivo dei suoni e imitavo, poi ho scoperto che la gente, ma tu assomigli Troisi, questo accento che hai nasale, cioè basta un attimo che questa cosa. Ho capito, ti viene proprio spontaneo e naturale. Va bene, dai, senti Paolo, noi ti facciamo come abbiamo fatto prima a Mirko per la carriera di arbitro, ti facciamo un in bocca al lupo per la carriera d'attore, e poi se farai anche l'attore famoso bagnino sarà, diciamo, un qualcosa in più per chi ti ingaggerà. E senti, Alessandro Chiappini, come al volo mi ha posizionato Baywatch, la sigla di un altro di quei telefilm che ha rovinato generazioni di giovani che andavano lì dicendo correremo con i nostri costumi rossi sulla spiaggia insieme a donne californiane bellissime. 800 24 00 24, l'argomento di oggi è chi cambia vita con le stagioni, chi cambia lavoro dall'inverno all'estate. Antonio, pronto? Pronto. Antonio, tu hai due professioni? Sì, ho due attività professionali che faccio in rotazione secondo le situazioni economiche, tanto in inverno che d'estate. Che cosa fai d'inverno? Talvolta d'inverno o d'estate, secondo se ho lavoro nella prima attività professionale, faccio il maestro sci nelle stazioni invernali o estive, tipo ghiacciaio d'estate e nevate d'inverno. E di base, teoricamente, faccio il consulente industriale, essendo un ingegnere. Ma è un ciclo economico, inverto se dell'uno nell'altro non c'è spazio, insomma. Ma quindi, diciamo, è una scelta comunque legata anche al mettere insieme due introiti? Sì, per non rimanere fermo. E poi comunque è un'opportunità, quella facendo attività in montagna, conoscere altri contesti, altre persone. È un lavoro, l'ho preso perché fece una battuta durante la lezione sci, c'era un cliente di un collega che mi interferiva con l'attività e mi fece una domanda di dove fossi. Io risposi a volo, stando al nord, che ero Basso Tesino, e si mise a ridere perché non esiste il Basso Tesino. E quindi praticamente tu da lì, da maestro di sci, hai preso il lavoro? Sì, sì, ho preso una consulenza come ingegnere, quindi a volte la fortuna di chi ha una seconda attività, dove la prima è stagnante, è quella di poter riaprirsi altri contatti, altri spazi, altri luoghi, punti di vista, insomma. È importante, secondo me, avere diciamo questi vasi di compensazione in cui la prima possa essere riportati nel secondo. Ma tu non ci quando fai il maestro di sci, che diciamo la verità è un lavoro un pochino più affascinante, non ci pensi mai a fare quello sempre? Per un cittadino è difficile l'inserimento nel contesto della stazione invernale, perché solitamente sono i locali che hanno, diciamo, la stanzialità, sono padroni degli alberghi, eccetera, eccetera. E quindi non è facile nemmeno quello. Va bene, senti Antonio, siamo in chiusura e ti devo ringraziare, in bocca al lupo per tutte le tue attività. Va bene, io vi saluto anche per oggi, ringrazio ovviamente Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini e noi torneremo domani. Scriveteci girodivita@radio24.it, facebook.com/girodivita, oppure lasciateci un messaggio nella nostra segreteria telefonica. A domani. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.